GR Europa. In Europa dunque, dove oggi la Commissione si aspetta che l'Italia rispetti gli impegni presi, così in una nota poco fa, e ancora le ragioni alla base del risultato delle politiche italiane sono da cercare in Italia e non a Bruxelles, così invece Joaquin Almunia, il commissario europeo alla concorrenza, rispondendo appunto alle accuse e alle implicazioni, diciamo, europee del voto italiano. Su questo tema, naturalmente, aperta una vera e propria crisi permanente anche a Bruxelles. Allora Anna Marino ha cominciato a sentire dei pareri autorevoli. Sentiamo in primo luogo Gianni Pittella, che è uno dei vicepresidenti del Parlamento europeo. Da un lato c'è incredulità, perché non si capisce come mai, se c'è una coalizione che ha preso una maggioranza, per questa maggioranza non si esprime nel numero dei seggi in tutte e due le camere, e io ho dovuto spiegare che in Italia abbiamo una legge elettorale che non a caso viene chiamata porcellum, porcata, perché ha due differenti modelli, uno per la Camera e l'altro per il Senato. Oltre all'incredulità c'è una opinione piuttosto diffusa che l'esito sia stato influenzato dalle politiche di austerità prodotte proprio da alcuni governi europei, che poi le hanno imposte agli altri governi, che hanno determinato una situazione di grande tragedia sociale. E questo era Gianni Pittella, dunque in quota PD, mentre l'altro vicepresidente è Roberta Angelilli in quota PDL. Sentiamola. C'è attesa prudente, ma anche un'aspettativa positiva, nel senso che comunque tutti i rappresentanti delle massime istituzioni europee hanno detto che sono fiduciosi che l'Italia saprà trovare una soluzione costruttiva e che da questo punto di vista certamente tutti confidano anche nel Presidente della Repubblica, che sicuramente può contribuire ad un positivo sbocco di questa situazione, che ovviamente è potenzialmente molto critica. Se evidentemente l'esito del turno elettorale è stato un esito piuttosto frammentato e piuttosto problematico, evidentemente in democrazia succede anche questo. Roberta Angelilli dunque e Gianni Pittella, vicepresidenti del Parlamento, intervistati da Anna Marino. Intanto ci sono altri fatti e numeri che pesano. Eurostat lancia l'allerta sul rischio povertà per i minori nel continente. L'Italia è tra i paesi messi peggio. Allarme europeo per giovani e bambini. Nel 2011 il 27% dei cittadini minorenni erano a rischio povertà o esclusione sociale. Così Eurostat ha fotografato una situazione preoccupante che vede l'Italia ben al di sopra della media continentale col 32,3%. Secondo le statistiche comunitarie, i bambini e i giovani minorenni sono maggiormente a rischio povertà ed esclusione sociale rispetto alle altre categorie. Quella che esce dalle statistiche è un'Europa dove le disparità contano, purtroppo. Un minore su due figlio di genitori con basso titolo di studio è a rischio povertà. Rischio che si riduce solo al 7% qualora sia figlio di laureati. I paesi in cui la situazione di bambini e ragazzi minorenni è più difficile sono Bulgaria, Romania e Lettonia. L'Italia è al settimo posto in questa difficile classifica. Basso rischio povertà per i minori di Svezia, Danimarca e Finlandia. La situazione si aggrava ulteriormente in Europa per i figli degli immigrati, a rischio in un caso su tre. Se i minori sono i più esposti al rischio povertà, non se la passano bene in tempo di crisi neppure le classi senior. Un adulto su quattro e un anziano su cinque si trovavano in difficoltà due anni fa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con questo è tutto. Roberto Scaltritti in regia, Gigi Donelli al microfono. GR Europa torna domani come sempre poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.